Siamo in diretta con Cosenza, è stata occupata poco fa l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Sì, siamo ancora sull'autostrada, ma adesso stiamo ritornando allo svincolo, in protesta contro il DDL Gelmini, in comitanza a tutte quelle che sono le proteste d'Italia. Abbiamo occupato 1.500 persone, la protesta è andata bene e speriamo che venga cancellato definitivamente questo DDL dalla giunta politica del governo. Benissimo, quanti siete? Hai detto 1.500 all'incirca, giusto? 1.500, sì. Benissimo, ma vi siete mossi in corteo su Cosenza prima di raggiungere il... Sì, siamo partiti dall'università, abbiamo fatto un presidio, dopodiché abbiamo raggiunto l'autostrada, abbiamo fatto rende dove l'università, qui a Cosenza, siamo arrivati allo sbinco dell'autostrada, siamo saliti e niente, abbiamo bloccato per mezz'ora l'autostrada. Benissimo, ciao, grazie, a più Okay. tardi. Ciao.